Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un Abuso al Giorno. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore. Se spigolerete tra gli ultimi post che ho scritto, tra gli ultimi articoli che ho scritto, ne troverete anche uno dedicato al rischio di infiltrazioni mafiose in questa regione in Abruzzo devastata dal terremoto. Sapete voi che ci seguite che sono diverse settimane che noi stiamo dedicando dei servizi all'Abruzzo. Radio 24 è impegnata in questo e anche la mia trasmissione quindi a ruota. Oggi abbiamo ospite Antonello Carbonara, che è il presidente dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila. Buongiorno Avvocato Carbonara. Buongiorno a lei. Allora, con lei subito nel vivo del problema. La mia trasmissione si chiama Un Abuso al Giorno. Quali abusi vede dietro l'angolo, parafrasando un celebre detto di Maurizio Costanzo? Dunque, guardi, io devo fare una premessa. È quella che il sisma ha purtroppo colpito in maniera preponderante il centro storico della nostra città, dove gravitavano gli studi professionali dei colleghi, in quanto il nostro palazzo di giustizia è inserito nel contesto urbano, quasi al centro della città. Certo. Quindi, avendo vissuto questa triste esperienza ed avendo gli studi inagibili, i professionisti aquilani hanno pensato, parlo degli avvocati ovviamente, hanno pensato di dover indirizzare le loro attenzioni nella zona dove sta per sorgere una nuova cittadella giudiziaria, che poi nella zona di Bazzano dove vi è il nucleo industriale. Quindi diciamo il nuovo palazzo di giustizia. Sì, perché gli uffici giudiziari troveranno una nuova sistemazione, si dice provvisoria, ma non si sa per quanto tempo, in questa zona appunto dove è inserito il nucleo industriale. Ora, quello che io vedo dietro l'angolo è sicuramente un qualcosa che abbiamo già apprezzato con le nostre mani per nostra esperienza, perché qualche privato che ha in quella zona delle strutture, dei capannoni, ha già fatto inviare degli sms agli avvocati aquilani per rendere nota la disponibilità di capannoni dove inserire degli studi legali. Quindi diciamo così un ufficio, perché poi voi avete degli uffici, collocati all'interno di un capannone industriale che ha tutt'altra destinazione d'uso ovviamente. Esatto, esatto. Quindi l'abuso ci sarà sotto un duplice ordine di motivi, e cioè innanzitutto in un contesto industriale dove la destinazione degli immobili non può che essere tale. Ma il secondo abuso è quello che eventuali affitti che in un periodo di normalità potrebbero essere più che accessibili, domani potrebbero lievitare fino all'inverosimile. Ecco, lei diceva che ci sono state delle agenzie di intermediazione immobiliare che hanno mandato degli sms agli avvocati aquilani. Al di là del complimentarsi per il fatto che sono riusciti a trovare i vostri cellulari, questo voglio dire, già ci sarebbe da indagare su questo, perché i numeri dovrebbero essere di solito riservati. Ma parlano di quali cifre intanto, avvocato? Facciamo degli esempi, prima guardi, e dopo. Ora non so il taglio di questi locali, quali potrebbe essere, però non vi è dubbio che le cifre di cui si parla vanno da un minimo di 300 euro a un massimo di 600 per dei piccoli locali. Ecco, ma poi il capannone sarebbe, come dire, suddiviso tra tante aree all'interno delle quali collocare le attrezzature, non so di quale tipo di materiale, ma sicuramente verrebbero fatti dei piccoli scompartimenti da destinare a studi. Ecco, ma questo mi sembra illegale, no? Mi corregga se sbaglio. Sicuramente lo è, come le dicevo prima. Ecco, ma un avvocato può, come dire, assecondare un'iniziativa illegale? Cioè lei come presidente dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila, guardi, che tipo di messaggio può dare ai suoi colleghi? Noi stiamo vivendo una situazione di drammaticità tale che forse poi tanti scrupoli sotto questo profilo, i colleghi potrebbero anche non farselo, certo. Non vi è dubbio che noi non possiamo raccomandare di così trovare una sistemazione che è illegale. Però chiaro, potrebbero essere spinti soprattutto i giovani colleghi dalla necessità di riprendere l'attività. Ecco, lei segnatamente in questo momento dove sta lavorando? Il suo studio sarà stato danneggiato sicuramente dal sisma. Dove lavora lei? Il mio studio è situato nel centro storico e sicuramente non avrò modo, anche se venisse dichiarato agibile previa effettuazione di alcuni lavori, non avrò modo di poter svolgere lì la mia attività, per il semplice motivo che dovranno essere demoliti degli edifici interi nelle vicinanze del mio studio, per cui l'accesso sarebbe non più consentito, certo, non solo a me ma anche ai miei clienti. Quindi, quindi lei adesso dove lavora? Io adesso sto, non dico lavorando, io sto solo svolgendo le mie funzioni di presidente dell'ordine per assicurare ai miei colleghi un punto di riferimento, visto che abbiamo sistemato provvisoriamente la sede del consiglio presso alcuni uffici di servizi sociali. E questo è importante. Ecco, e questo è importante. Il tribunale per i minorenni. Ecco, veniamo ad un approfondimento di quanto lei diceva, che trovo giusto denunciare, e mi fa piacere che a denunciarlo sia il presidente dell'ordine degli avvocati dell'Aquila. Sì. Vale a dire, c'è qualcuno in queste situazioni come ai tempi della guerra con il mercato nero, no? Che se ne approfitta. Terremoto, sciagura, solidarietà sicuramente tanta, ma anche qualche sciacallo. Sciacallo tra gli stessi aquilani, ovviamente, perché il proprietario di un capannone industriale nella zona Bazzano all'Aquila non sono certamente io, ma sono aquilani. Allora, le chiedo, a notizia anche di altri professionisti che sono stati contattati, commercialisti, ingegneri, geologi, cioè tutti coloro i quali hanno un'attività, medici, a collocarsi presso questi capannoni industriali dismessi o comunque vuoti? Non possiamo fare il processo e giungere a una sentenza. No, le sto chiedendo se lei ha informazioni di questo tipo. Sicuramente sì, anche altri colleghi liberi professionisti sono stati interessati, però ci tengo a puntualizzare che con un provvedimento delle autorità competenti, che in questo caso credo sia la Regione Abruzzo, potrebbero eventualmente ottenere un provvedimento di deroga per quanto concerne la destinazione, certo, e quindi ottenere poi la normalizzazione. Assolutamente, ma a posteriori, diciamo. Quello che è comunque riprovevole è che questo tentativo sia avvenuto a così breve distanza dal terremoto, quasi per dare un segnale concreto della capacità che hanno dei privati di non farsi scrupoli. E certo. Perché io dico che prima dovrebbero ottenere i provvedimenti autorizzativi e poi eventualmente di... Assolutamente. Ecco, veniamo alla vostra categoria, al vostro ramo professionale, gli avvocati. Non c'è il rischio che ci possano essere anche degli abusi commessi dalla sua categoria? Mi spiego, moltissime cause partiranno nei confronti dei costruttori, nei confronti di chi ha fatto o non fatto le perizie, di chi ha fatto o non fatto il collaudo. Ecco, non c'è il rischio che qualche avvocato possa chiedere delle parcelle magari elevate rispetto alla media? Beh, guardi, innanzitutto noi abbiamo delle tariffe professionali che consentono agli avvocati di chiedere i compensi, ma sempre nell'ambito di queste tariffe. Certo. Ora, per quanto concerne quella che sarà la futura attività degli avvocati, non vi è dubbio che vi sarà occasione anche di fare delle cause per i motivi che lei evidenziava. Certo. Voglio augurarmi che i colleghi restino sempre nei limiti della legalità, anche perché chiedere somme esorbitanti che non hanno giustificazione potrebbe portare all'apertura di un procedimento disciplinare. Ecco, quanti sono gli avvocati iscritti all'ordine nella provincia dell'Aquila? Noi abbiamo all'albo degli avvocati di L'Aquila 600 avvocati iscritti. Ecco, per quanto lei possa sapere attraverso i suoi colleghi, c'è già qualcuno, più di qualcuno, che ha avviato delle pratiche, diciamo così, di cause da intentare contro? Sì, guardi, perché mi sono stati dei privati che hanno liberamente esporto denuncia all'autorità giudiziaria come iniziativa personale, ma non vi è dubbio che ci siano già dei colleghi che sono stati officiati per muoversi in questo senso. Ho capito. Perché poi dall'eventuale procedimento penale potrebbe sorgere la costituzione di parte civile, certo, per i danni, oppure poi, certo, riservarsi di fare in separata sede un giudizio per il risarcimento. Ecco, un'altra domanda le volevo fare. Voi temete, avete, come dire, sentore che potrebbero esserci dei grandi studi di avvocati disposti a venire all'Aquila per seguire le cause che eventualmente si dovessero aprire, oppure il corpo... Guardi, siamo in un regime di libero mercato, certo, per cui non è da escludere questa possibilità. Devo peraltro anche fare una precisazione, che i nostri organi istituzionali hanno così raccolto la disponibilità di avvocati sparsi in tutta Italia di ospitare giovani avvocati nei loro studi, peraltro offrendo la possibilità di percepire un reddito e di avere anche vitto ed alloggio gratuitamente. Quindi questa eventualità si potrà verificare, anche se noi non vediamo di buon occhio questa eventualità, perché in questo modo andremo a depauperare il nostro patrimonio di giovani professionisti. Noi assolutamente, non anche la vostra, favore, l'esodo degli avvocati dalla nostra città, certo, e anche noi la vostra... vogliamo dare loro la speranza di un futuro, perché è giusto che questa città riprenda la sua vita normale e che abbia possibilità di riemergere così come era peraltro nei tempi passati. Assolutamente d'accordo, anzi io colgo l'occasione per farle gli auguri, e con lei li faccio a tutto il corpo degli avvocati, a tutti i professionisti in Abruzzo. La ringrazio per il suo intervento, tornerò ad averla ospite perché voglio seguire la vicenda, soprattutto degli insediamenti dei professionisti in aree per il momento non abilitate ad accoglierle. Grazie regia Giorgio Mattei, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.